Il calzolaio scaltro. Questa è la storia di un povero calzolaio che viveva in un piccolo villaggio con sua moglie. Non aveva lavoro nel villaggio e presto non ebbe nemmeno soldi per comprare del cibo. Così un giorno prese una decisione e disse a sua moglie: «Non posso restare qui ancora a lungo. Non c'è lavoro qui. Devo tentare la fortuna nella grande città. Potrei ottenere un lavoro decente lì». Il calzolaio raggiunse la grande città. Vagò per le strade, gridando: «Fatevi fare delle scarpe nuove! Fatevi fare nuove scarpe! O lasciate che le vecchie sembrino nuove! O semplicemente prendetene un paio nuove scintillanti! Prendete nuove scarpe! Prendete nuove scarpe!» Il calzolaio non ottenne nessun lavoro il primo giorno. Il giorno successivo, di nuovo vagò per le strade della grande città, urlando: «Fatevi fare delle scarpe nuove! Fatevi fare nuove scarpe!» Una donna lo chiamò: «Signor calzolaio, ripareresti queste scarpe?» «Certo, signora!» Il calzolaio si sedette alla porta di casa e ricucì con le scarpe. «Ecco, mia signora, le scarpe sono pronte!» «Quanto le devo?» «Una moneta di rame!» «Ecco qui!» Prese i soldi e se ne andò. Appena entrato nella strada successiva, un'altra donna lo chiamò e gli chiese di riparare delle scarpe. «Ecco alcune paia di scarpe, per favore riparale!» Il calzolaio riparò le scarpe, prese i soldi e se ne andò. «Oggi ho fatto un bel po' di soldi. Se continuo a lavorare in questo modo, presto avrò abbastanza soldi per comprare un asino». Lavorò molto duramente e dopo pochi giorni aveva guadagnato 4 monete d'oro. Comprò un asino con 2 monete e decise di tornare a casa. Il giorno dopo fece le valigie e se ne andò verso casa. Sulla via del ritorno attraversò una foresta, dove vide una banda di ladri. «Dio, salvami! Questi ladri porteranno via tutti i miei soldi e diventerò povero ancora una volta. Cosa faccio?» Il calzolaio era molto intelligente. Non si perse d'animo e pensò a un piano. Legò una moneta d'oro al collo dell'asino e andò avanti. I ladri lo catturarono. «Fuori tutti i soldi! Forza, presto!» «Vedi, sono un povero ciabattino. Non ho nient'altro che quest'asino. Per favore, lasciatemi andare!» Non appena udì questo, l'asino ragliò e la moneta d'oro cadde dal collo a terra. «Davvero? Allora da dove hai preso questa moneta d'oro? Come ti permetti di mentire a noi?» «Basta, basta! Va bene, te lo dirò. Quest'asino produce oro. È così che ho ottenuto tutti i miei soldi!» «Bene, vendici quest'asino e ti lasceremo andare!» «No, per niente! Se lo vendo, rimarrò senza niente!» «Ti daremo 50 monete d'oro per questo!» «Bene, ma fate attenzione a tenere l'asino con ciascuno di voi un giorno alla volta! Oppure finirete per litigare per i soldi!» Il calzolaio vendette l'asino e tornò a casa. Era molto felice di avere le monete d'oro. Con i soldi comprò un allevamento di pollame. Nel frattempo, anche i ladri avevano raggiunto il loro nascondiglio con l'asino. Il loro capo disse a tutti loro: «Essendo il capo di questa banda, sarò io il primo a tenere l'asino con me!» I ladri obbedirono al loro capo e quella notte il capo dormì nella stalla con l'asino. Voleva prendere i soldi appena sveglio. La mattina dopo, quando si alzò, vide che non c'era niente nella stalla. Cercò nell'intera stalla, ma non trovò nulla. Si rese conto che il calzolaio li aveva ingannati. Nel frattempo, arrivò un altro ladro. «Capo, hai l'oro? Dici quante monete ha creato l'asino?» «Lo scoprirai da solo, quando terrai l'asino con te stasera!» Il capo non disse nulla a nessuno, perché voleva assicurarsi di non aver commesso un errore. Uno dopo l'altro i ladri tennero l'asino con loro, ma nessuno di loro ottenne niente. Tutti loro capirono di essere stati ingannati. Il capo riunì tutti quanti. Quel calzolaio ci ha ingannato. Gli daremo una lezione. Ci ha venduto questo asino normale per 50 monete d'oro. Ci riprenderemo tutti i nostri soldi e lo puniremo per aver osato ingannarci. Sì, andiamo. Partirono per la casa del calzolaio. Lui stava lavorando nella fattoria. Vide i ladri arrivare. Si precipitò dentro la casa e disse a sua moglie: ascoltami attentamente. Quando i ladri arriveranno qui e chiederanno di me, digli che sto lavorando nella fattoria e poi manda il nostro cane Milo a chiamarmi. Detto questo, si nascose dietro la sua casa. Poco dopo arrivarono i ladri. Dov'è quel calzolaio? Chiamalo! Vogliamo parlare con lui! È andato alla fattoria. Lasciami mandare il cane a chiamarlo. Milo, vai a chiamare il tuo padrone. Digli che alcune persone sono venute per incontrarlo. Cos'è tutto questo? Il tuo Milo farà davvero venire tuo marito qui? Certo, lui capisce tutto. Ogni volta che ho bisogno di parlare con lui mentre è in fattoria, semplicemente mando Milo da lui e Milo porta il mio messaggio. Mentre i ladri parlavano alla moglie, arrivò il calzolaio. Oh, sei tu! Milo mi ha detto che volevi parlare con me. Non abbiamo avuto nulla dall'asino. Ci hai imbrogliato! Ci hai mentito! Ascolta, sono sicuro che avete fatto un errore. Qualunque cosa io abbia è a causa dell'asino. Bene, ti crediamo. Ma allora dovrei venderci anche questo cane. No, per niente. Non posso venderlo. Ti pagheremo 40 monete d'oro per questo. Dopo aver rifiutato per un po', il calzolaio acconsentì a vendere il cane. I ladri presero Milo e se ne andarono. Quando raggiunsero la grotta, il capo annunciò che sarebbe stato il primo a tenere il cane con sé. Gli altri gli obbedirono e se ne andarono. Il capo chiamò sua figlia Camilla. Ascolta, Camilla, vado a lavorare. Se qualcuno viene a chiedere di me, manda Milo a chiamarmi. Come dici tu, papà? Poco dopo arrivò un uomo e chiese alla figlia del capo di chiamare suo padre. Un momento, prego, lo farò chiamare subito. Milo, vai a dire a papà che qualcuno è qui per incontrarlo. Milo fuggì dalla casa del capo e invece di andare dal capo dei ladri andò direttamente dal calzolaio. Quando il ladro tornò a casa la sera, vide che Milo non era lì. Si rese conto che Milo doveva essere tornato dal suo maestro. Così andò alla casa del calzolaio. Ascolta, Milo è venuto da te? Sì, eccolo. Penso che sentisse la mia mancanza. Dagli un po' di tempo. Alla fine inizierà ad accettarti come suo padrone. Il capo portò Milo indietro con sé e lo diede a uno dei suoi compagni il giorno dopo. Milo rimase con ognuno dei membri della banda, ma ogni giorno tornava dal calzolaio. Tutti si resero conto che erano stati ingannati ancora una volta. Discussero. Questa volta non ci faremo ingannare. Daremo a quel calzolaio una lezione. Questa volta raggiunsero la casa del calzolaio. Non prestarono attenzione a ciò che il calzolaio aveva da dire. Lo misero in un sacco e partirono per dargli una lezione. Il calzolaio si adagiò tranquillamente nel sacco. Lungo la strada passarono davanti ad una chiesa. Uno dei ladri disse: capo, fa molto caldo. Riposiamoci per un po' in chiesa. Possiamo sicuramente aspettare fino a sera per fare il lavoro. Lo lasciarono lì e andarono tutti nella chiesa. Questa chiesa era in cima ad una collina. Un contadino con i suoi maiali stava passando. Quando sentì la voce dell'uomo, al calzolaio venne un'idea e iniziò ad urlare a squarciagola. Non lo farò! Non lo farò! Lasciami! Lasciami andare! L'uomo udì la voce del calzolaio e andò verso di lui. Chiese al calzolaio: Aspetta, amico, che cosa è successo? Cosa non farai? Chi ti ha messo nel sacco? Vogliono farmi sposare la figlia del re, ma io non voglio sposarmi. Perché, amico? Sei pazzo? Se fossi al tuo posto, mi sposerei sicuramente subito con la principessa. Se è così, vieni, ti metterò nel sacco. Vai e sposa la principessa. Veramente? Certo, ma prima fammi uscire. Il contadino tirò il calzolaio fuori dal sacco e ci entrò. Il calzolaio chiuse il sacco e prese i suoi maiali. Si allontanò da lui. I ladri uscirono dalla chiesa la sera, presero il sacco e se ne andarono. Ascolta, buttiamolo qui nel fango. Sarà una bella lezione. I ladri lo gettarono nel fango e andarono via da lì. Mentre tornavano, videro il calzolaio sulla strada e rimasero scioccati. Come sei arrivato qui? C'è un posto magico sotto quel fango. C'è molto oro e le guardie di quell'oro sono questi maiali. Sono uscito con il loro aiuto e ho portato un po' d'oro con me. Sto giusto tornando a dormire lì. Aspetta, portaci in quel luogo magico. Ma attenzione, non azzardarti a toccare l'oro. Ma io... Fa come dico. Bene, se insisti. La banda di ladri raggiunse il posto con il ladro. Se vuoi l'oro, allora devi chiuderti nel sacco. Tutti i ladri si infilarono nei sacchi. Il calzolaio li gettò tutti nel fango e poi li lasciò insieme ai maiali. Ehi, ci hai fregato di nuovo! Ehi, fratello, tiraci fuori! Non ti daremo più noia! Non lasciarci così, per favore! I ladri continuarono a gridare mentre i maiali li leccavano. Vedendo questo, il calzolaio rise e andò a casa sua. Visse serenamente e felicemente con sua moglie.